giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Esce di strada a Chionse, muore carbonizzato nella sua auto. Ghirghiani aveva 21 anni e viveva ad Azzano Decimo. Sabato da Bollino Nero, ma traffico meno intenso del previsto all'Isert, 40% di transiti in meno rispetto a un anno fa. Muggia prepara il suo carnevale estivo, ma rafforza sicurezza e pattugliamenti dopo gli ultimi fatti di cronaca. Gile giallo, regole di sicurezza e un invito a godersi Udine in serenità. Gli street tutor in azione nelle vie della Movida. I militari in divisa viaggeranno gratis su bus e treni sui percorsi regionali. La giunta stanzia 905.000 euro. Più di 42 litri di acqua persi in regione ogni 100 immessi in rete, lo conferma uno studio CGA su dati Istat. Olimpiadi nel judo a squadre, la triestina Toniolo regala un punto alla corsa degli azzurri, sesta la squadra del canottaggio con la lignanese Gnatta. Alle 13 sciabola femminile a squadre con Michela Battistone di Tor Viscosa, in finale il pesista azzurro triestino Weir. 12:31 minuti, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Come avete sentito dai titoli, cominciamo da un tragico incidente. Un giovane di 21 anni di Azzano Decimo è morto carbonizzato nella propria auto dopo un incidente in cui la vettura è uscita di strada e si è schiantata contro un muretto per poi prendere fuoco. È successo alle 3:40 di notte a Chionsi, in provincia di Pordenone. Il ragazzo è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Un forte boato verso le 3:30 del mattino, poi il fumo che inizia a levarsi dall'auto, accartocciata contro la spalletta di un fosso. Inutili i soccorsi. È morto così questa notte Ani Ghierghi, 21enne cittadino italiano di origini albanesi, la cui famiglia risiede da molti anni ad Azzano Decimo. Secondo le prime informazioni stava facendo ritorno a casa dopo una serata trascorsa con amici. Lo schianto è avvenuto in via Cesena, nel tratto che si trova in comune di Chions, nella frazione di Taiedo, all'altezza del civico 15. L'auto del giovane proveniva da Azzano Decimo e procedeva appunto in direzione di Chions quando il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, finendo nel fossato che la costeggia e schiantandosi contro il manufatto in cemento, per poi essere avvolta dalle fiamme. I residenti della vicina abitazione hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la compagnia carabinieri di Pordenone. Ma per il giovane, che viaggiava da solo, non c'era più nulla da fare. È rimasto infatti intrappolato nell'abitacolo della vettura, completamente distrutta dalle fiamme. Da accertare le cause dell'uscita di strada. Non si esclude alcuna ipotesi, dalla velocità elevata al colpo di sonno o al malore. La Procura della Repubblica di Pordenone, con il PM di turno Federica Urban, ha posto sotto sequestro il veicolo. Chions, Lara Zanni, TGR Friuli Venezia Giulia. E adesso ci trasferiamo sulla rete autostradale, perché quello di oggi è un sabato di esodo estivo marchiato con il bollino nero. Ci sono stati rallentamenti fin dalle prime ore del giorno, ma sentiamo la situazione in questo servizio. Giornata anomala quella che si sta sviluppando sulla rete gestita da Autostrade Alto Adriatico. Più 1,5% il flusso di questo sabato rapportato alla stessa giornata di un anno fa. Tra i dati in evidenza il meno 40% di passaggi alla barriera dell'Isert in uscita verso la Slovenia e la Croazia. Nel corso della giornata è previsto un recupero dei transiti verso Trieste, ma la cospicua diminuzione è dovuta anche alle partenze spalmate durante tutta la settimana, il 2% in più dello stesso periodo del 2023, con il giovedì che ha fatto registrare un più 4%. Il traffico al momento è in aumento, con i maggiori disagi all'uscita di Latisana e all'Isert, dove la coda ha raggiunto i 2 km. In tanti però scelgono l'uscita di Villesse, una deviazione verso la Croazia leggermente più lunga ma più scorrevole. 2.800 i passaggi di vettura all'ora tra San Giorgio di Nogaro e lo snodo di Palmanova. In confronto con la scorsa settimana, alle targhe italiane e a quelle tedesche si aggiungono tante francesi. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, arresti domiciliari eseguiti dalla mobile di Udine a carico di due ragazzi italiani di 18 e 19 anni indiziati di essere i responsabili della rapina al dipendente di un locale del centro avvenuta il 27 giugno scorso. Quella notte, verso le 23:20, il cameriere che lavora in una pizzeria di via Anton Lazzaro Moro, mentre stava rincasando con una pizza nel cartone da asporto per la sua cena, era stato avvicinato da tre ragazzi ragazzi che non conosceva, uno dei quali, strappatogli il cartone della pizza di mano, lo aveva colpito al volto con un violento pugno facendolo cadere. A terra poi era stato percosso con calci e pugni anche da un altro del gruppetto e al termine dell'aggressione si era accorto di essere anche stato derubato dal portafoglio con documenti e denaro. Le indagini avevano poi rivelato che i tre ragazzi del gruppetto avevano percosso anche un altro loro coetaneo a bordo di un bus. Seconda settimana di operatività per gli street tutor di Udine, coordinate dalla polizia locale, si aggirano lungo le strade della Movida udinese per contribuire a mantenere sicurezza e decoro. Il servizio resterà attivo ogni venerdì e sabato dalle 19 alle 23 fino a Friuli Doc. Abbigliamento sportivo, gilet giallo con da un lato lo stemma del comune di Udine, dall'altro un QR code dove, inquadrandolo con il cellulare, è possibile scaricare il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana. Sulle spalle un cuore con la scritta Keep Calm and Enjoy Udine. Sono gli street tutor voluti dal comune per migliorare la qualità della vita urbana nel rispetto delle regole, informando e sensibilizzando i cittadini, residenti e non, sulle ordinanze e regolamenti comunali e promuovendo il rispetto reciproco e la civile convivenza. Per 8 fine settimana 12 tutor girano per il centro storico del capoluogo friulano, via Mercato Vecchio, Piazza Libertà, da via Vittorio Veneto fino a Piazza San Giacomo, gli spazi d'azione degli street tutor, divisi in tre gruppi da 4 persone. Alle 19 il ritrovo nella sede della Polizia Municipale, poi in giro sino alla 23 nel cuore di Udine. In caso di problemi legati all'ordine pubblico non è previsto intervento diretto, ma hanno il compito di avvisare il 112 o la Polizia Locale. Eros Del Longo, comandante Polizia Locale di Udine. Sono delle persone preparate, delle persone istruite proprio per fungere un attimino da mediatori dei conflitti laddove dovessero anche sorgere. Hanno quindi il compito di interagire in quelle che sono le dinamiche di prevenzione dei rischi sui luoghi pubblici. Quello cominciato ieri è il secondo fine settimana che li vede all'opera. La loro presenza è già apprezzata dalla cittadinanza. Michele Forzale, responsabile street tutor. Le domande più frequenti che ci sono state rivolte fino adesso sono: contenti perché finalmente hanno visto la volontà del comune di Udine di mettere in gioco questa sicurezza. Un centro storico che vede già l'impiego e il pattugliamento delle forze dell'ordine, dalla polizia locale ai carabinieri alla polizia, oltre al passaggio dell'esercito. E sono tanti i controlli effettuati per garantire la sicurezza di udinesi e visitatori lungo le vie del centro storico. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella settimana che si chiude con Ferragosto a Muggia tornerà il tradizionale carnevale estivo presentato questa mattina, un'occasione di festa che deve però fare i conti con l'allarme sociale creato nelle ultime settimane dalle incursioni di giovanissimi che arrivano a picchiarsi per soldi davanti a un pubblico di coetanei. Sentiamo il servizio. Pattugliamenti rafforzati delle forze dell'ordine nel centro storico, ma anche sul lungomare, nella zona della stazione degli autobus e in piazzale Caliterna, mentre una compagnia privata garantirà una sicurezza aggiuntiva. Muggia si prepara così al suo tradizionale carnevale estivo che animerà il centro dall'8 al 15 agosto. Il presidente del carnevale, Mario Vascotto, vuole ridimensionare l'allarme sicurezza in città. Come sempre ci saranno i ragazzi delle compagnie del carnevale a sorvegliare che tutto vada per il meglio, garantisce. La manifestazione si tiene da anni e non ci sono mai stati problemi. Il programma culminerà con la Carnival Run di sabato 10 agosto, una camminata corsa per le calli di Muggia, dove ogni esercizio commerciale organizza scherzi per i partecipanti e con i carri galleggianti spinti senza motore della Vogata Amata di domenica 11. Tutti i giorni, dalle 19.30 alle 20.30, ci saranno poi piccole performance di ballo e musica, oltre ai concerti serali. Il carnevale, ricorda il suo presidente Vascotto, è proprio un'occasione per coinvolgere quegli adolescenti al centro dell'attenzione e per allontanarli dal disagio e dagli episodi di violenza. Dopo il rafforzamento dei controlli della polizia e l'istituzione di steward sul lungomare cittadino, non si segnalano più risse a pagamento, come quella girata sui social media nei giorni scorsi. 500 giovani sono stati finora identificati e i continui passaggi delle forze dell'ordine dissuadono anche schiamazzi e atti vandalici, come ci confermano alcuni residenti della zona del piazzale della stazione degli autobus. Muggia, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Dal prossimo mese di settembre fino a tutto il 2025, gli appartenenti alle Forze Armate, Esercito, Marina e Aeronautica presenti sul territorio regionale potranno circolare in uniforme liberamente su tutti i servizi di trasporto pubblico locale, su gomma, urbani, extraurbani e misti e ferroviari regionali. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell'assessore alle infrastrutture e territorio, Cristina Mirante. La finalità, spiegato Ammirante, è quella di migliorare la sicurezza per i viaggiatori determinata dalla presenza di personale delle Forze Armate in divisa all'interno dei servizi di trasporto pubblico locale. Per questa sperimentazione, che partirà una volta firmata la convenzione, sigla prevista a fine mese, la Giunta ha disposto una copertura finanziaria di 905.000 euro. E ora parliamo di servizio civile, ma anche di leva, con le discussioni sull'opportunità di un ritorno all'obbligatorietà di un impegno per la comunità da parte dei giovani. L'idea di reintrodurre il servizio di leva militare o civile per i giovani piace a Nord-Est più che alla politica. Secondo un sondaggio di Demos per il Gazzettino, la proposta tra Veneto e Friuli Venezia Giulia è gradita dal 64% degli intervistati e il 49% non farebbe distinzioni tra uomini e donne under 26. Ma a 20 anni di distanza dalla sospensione della leva, almeno per il servizio civile, l'ipotesi non sembra sostenibile senza una rivoluzione strutturale. Alberto Meli, coordinatore di Info Servizio Civile FVG. Noi avremo circa 10-12 mila ragazzi all'anno, quindi vuol dire non 10 ma 20 volte i numeri attuali. E questo vorrebbe dire anche ovviamente mettere a livello nazionale 10 volte i soldi rispetto a quelli che ci sono adesso. Ogni anno il servizio civile in Friuli Venezia Giulia coinvolge tra i 550 e i 700 giovani, quasi 300 in provincia di Udine, oltre 200 in quella di Trieste, un centinaio a Gorizia e Pordenone. E i ragazzi rispondono, 850 le domande per 585 posti disponibili quest'anno. Sara Gerbaz è impegnata in un progetto di servizio civile nell'ambito della promozione sportiva con le ACLI. Sono molto soddisfatta della mia scelta perché mi aiuta maggiormente a relazionarmi con le persone, anche adulte, ma soprattutto con bambini e ragazzi, e a migliorare la mia empatia. È appena uscito il bando per il servizio digitale e servizio civile ambientale, un bando aperto con scadenza 24 settembre, requisiti di partecipazione 18-28 anni, maschi e femmine. Per le informazioni ci si può rivolgere oltre che al sito nazionale anche al sito infoservizocivile.it o per i ragazzi soprattutto le pagine Instagram di Infoservizio Civile. Andrea Covre, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora parliamo di risorse idriche. In Friuli Venezia Giulia per ogni 100 litri immessi nella rete se ne perdono in media più di 42. Lo ricorda la CGA di Mestre con uno studio basato su dati Istat. Ogni giorno in regione nella rete idrica circolano 437 milioni di litri d'acqua e se ne perdono circa 185. La causa delle perdite dovuta a rotture nelle condotte, a impianti vetusti, a errore di misurazione nei contatori, senza dimenticare gli allacci abusivi sulla rete. A livello nazionale il risultato del Friuli Venezia Giulia è nella media. La nostra regione si colloca proprio a metà della classifica che vede in cima Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Lombardia che sprecano circa 30 litri ogni 100, mentre la peggiore è la Basilicata che supera i 65 litri persi. A livello di comuni capoluogo di provincia in regione la situazione più critica riguarda Gorizia che perde il 51,9% dell'acqua immessa in rete. Si tratta di 234 litri al giorno. Segue Trieste con una perdita del 42%, ma ha pronto un piano per ridurre del 13%. Bene invece Udine con 21,3 litri persi e Pordenone con 12,1. Le due friulane sono tra le città più virtuose in Italia. Ora uno sguardo al meteo, il cielo è da nuvoloso a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11, a Trieste 26 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi e mezzo. A Udine 27 gradi, a Pordenone 28, a Gorizia 26, a Tolmezzo 20 gradi, a Tarvisio 16, a Forni di Sopra 20 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo 19, a Sappada 14 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 12 gradi, sullo Zoncolan 14, sulla costa Lignano e Grado 25 gradi e 5 decimi, temperatura del mare in entrambe le località 27 gradi. E le previsioni per oggi prevedono appunto su pianure costa cielo poco nuvoloso, sui monti da nuvoloso a variabile. Dalle ore centrali sarà possibile lo sviluppo sparso di qualche rovescio o temporale, più probabile sulla zona montana, sulla costa, venti di brezza. Adesso le Olimpiadi di Parigi, ultimo appuntamento per il judo. C'è una gara a squadre in corso in lizza. Anche le atlete regionali, gara a squadre che si differenzia rispetto alle competizioni individuali. Ogni match prevede un massimo di 6 incontri suddivisi per categorie di peso. L'Italia parte con l'obiettivo di lottare per salire sul podio. Nella competizione tra Italia e Ungheria la triestina Veronica Toniolo prevale contro Reka Puppen in meno 57 kg e regala così il secondo punto alla formazione azzurra, che chiude sul 4-1 senza che l'altra regionale, la friulana Asia Tavano, più 70 kg, abbia bisogno di combattere contro la sua avversaria. L'Italia si è qualificata così agli ottavi contro la Georgia. In questi accoppiamenti non sono state schierate le due friulane, ma la squadra ha battuto quella georgiana per 4-3 ed è quindi andata avanti ai quarti. Nella finale femminile di canottaggio, con Alice Gnata di Lignano, ha vinto la Romania, già campione del mondo, per l'Italia sesto e ultimo posto. Alle 13 si disputerà la gara di sciabola femminile a squadre con anche Michela Battiston di Malisana di Torviscosa. Nel pomeriggio Zeino, il pesista azzurro che è il nonno triestino, si è qualificato nel pomeriggio di ieri per le finali del getto del peso, che sono in programma questa sera alle 19:35. Per lui ieri undicesima misura con 21 metri. In finale anche l'altro azzurro, Leonardo Fabbri. Calcio: l'Udinese ha confermato ufficialmente l'innesto in squadra del centrocampista svedese Jesper Karlström, prelevato dalla squadra polacca dell'ex Poznan, con cui ha vinto il campionato nella stagione 2021-2022 per il classe 1995, anche 13 presenze con la nazionale maggiore svedese. Ricordiamo anche che oggi a Vienna ci sarà l'ultimo test per l'Udinese prima della Coppa Italia, bianconeri alle 18 in campo contro il sauditi del Al Hilal. Libertà di vivere oltre il Parkinson è l'evento in programma stasera alle 18:30 nella chiesa di San Leonardo in piazza Trava di Lauco. Ospite d'onore il ciclo viaggiatore Simone Masotti, affetto da Parkinson, che nel corso della serata presenterà il suo libro In bicicletta sono libero. Insieme a lui anche Carla Alessandrini, medaglia d'argento di ping pong al Parkinson World Championship del 2023, e la scrittrice Francesca Ciani, anche lei affetta da Parkinson. Masotti dice sempre che per i malati di Parkinson serve coraggio, follia e capacità di stare con i piedi per terra. Ci abbiamo chiesto cosa significhi per lui viaggiare con la bicicletta. Per me, innanzitutto, andare in bicicletta mi fa sentire una persona normale. È come se il Parkinson o Mr. Piquet scomparisse. No. E perché? Perché ho studiato, ma ho provato soprattutto sulla mia pelle, che la pressione proprio che è esercitata dal piede sul pedale dà degli stimoli al cervello che aiutano a produrre dopamina, che è la sostanza che a noi malati di Parkinson viene a mancare. Per quanto riguarda i viaggi, ho iniziato con un tour della Croazia e poi questo tour è stato fatto o con una persona anche malata di Alzheimer e abbiamo visto entrambi i benefici che si aveva ad andare in bicicletta. Poi c'è da dire anche la corsa in America. No, lì ero andato a conoscere David Finley, ex ciclista professionista che ha fondato l'unica associazione al mondo tutta sul movimento. Attraverso il libro sto portando questo messaggio di non nascondersi dietro la malattia. Ecco, vuole essere un momento di sensibilizzazione sul tema del Parkinson, in particolare su quanti mostrano la faccia e non si rinchiudono tra le mura di casa perché hanno paura di uscire. Talvolta anche a causa della depressione queste persone rimangono chiuse in casa, non sapendo invece quanto possa essere d'aiuto frequentare un gruppo di persone con la stessa patologia. Dopo Dafer Youssef e Bombino, un altro protagonista della musica mondiale, Richard Galliano, chiuderà domani la sesta edizione del Festival Musiche dal Mondo Glasbe Sveta, che ha portato nel castello di Kronberg, a Nova Gorica, 3 serate all'insegna della musica internazionale. La manifestazione chiude con l'atteso concerto Passion Galliano alle 21, sul palco il virtuoso della fisarmonica e del tango bandoneon, che torna con un omaggio speciale a George Gershwin, che si titola Around Gershwin. Il concerto offrirà una nuova prospettiva su capolavori come Rhapsody in Blue, An American in Paris e Porgy and Bess, anticipando l'uscita del nuovo album per Pentatone previsto per settembre. Alcune proiezioni a 24 anni dalla sua prima. Il regista Massimo Garlatti Costa ripresenta Buris, Libars di Scugnivigni. Si tratta di un falso documentario sulla gente, il paese e la Tony International, fantomatica casa di produzione di film porno friulana, nata dall'ingegno del falegname disoccupato Tony Cantarut, che trasforma Buris da paese abbandonato della pedemontana in una delle 3 capitali mondiali del cinema porno, a Casa Ursella, nella sede Anna di Buia, in via Salita di Monte, alle 21. Seconda puntata di Bania al Paese Leuchi, format video incentrato sulle vicende popolari di Bania ambientata nel primo dopoguerra, recitato in Bagnotto, una variante del friulano parlata diffusamente fino ai primi anni 50 dagli abitanti della frazione, alle 19.30 presso l'area festeggiamenti della Proloco Bania, Fiume Veneto. Ultima passeggiata cinenaturalistica con picnic di cineambulante. Si intitola Sulle tracce del Tilia Ventum e parte alle 18 da Piazza del Tiglio di Moruzzo con il regista Stefano Giacomuzzi e la guida naturalistica Anna Lazzati di Wild Roots sulle tracce dell'antico ghiacciaio Tilaventino. Alle 21, doppia ultima proiezione con Ulderica Frutte di Mont, ritratto della fotografa Ulderica da Pozzo, e poi con Claps e Peraulis, protagonista la poetessa Rosanna Bertolini. Evento speciale con i danzerini di Aviano, che questa sera in Piazza Duomo ad Aviano alle 21 presentano lo spettacolo 1000 anni a passo di danza, un evento speciale che celebra il centenario di fondazione del gruppo con danze, musiche e canti che hanno celebrato la cittadina in Italia e nel mondo. Si chiama Contemporanea, l'iniziativa della Galleria Enrico De Ciglia a Trepoli Gosullo. Da oggi fino all'11 agosto saranno esposte le opere di Alvise Bone ed Eugenio Azzola, maestri della pittura distopica o distopittura, al vernissage alle 18. Terza edizione di Servola sotto le stelle, la festa rionale sostenuta dal Comune di Trieste, dalle 16, mercatino artigianale, la party dance, l'animazione per bambini con visite ai musei e altro, e mostre di pittura soprattutto al Circolo Ivan Gerbcek e al Museo del Presepio. Il servizio navetta tra Valmaura e Servola è previsto ogni 20 minuti a partire dalle 19.40. Verranno con normale biglietto urbano, abbonamento, TPL. In occasione della manifestazione ci saranno anche modifiche alla viabilità in via di Servola nelle vie limitrofe dalle 15, sarà in vigore il divieto di sosta fino a 1, mentre dalle 16 sarà proibita la circolazione per tutti i veicoli in via di Servola dalle 19.30 anche in alcuni tratti di via dei Soncini e di San Lorenzo in Selva. Ottavo appuntamento con la rassegna Vento d'estate al Parco Martiri delle Foibe di Udine a cura del Circolo Arci Mi Scappa, con enti e associazioni del territorio, chioschi attivi dalle 17, piccole poesie per piccoli poeti, poi due concerti, Coffee Break Meditation e gli Urtier, proiezione di un film al calar del sole. Le notti del vino faranno tappa oggi a San Giovanni Natisone nel parco di Villa De Brandi, alle 19.30, protagonisti i 27 produttori vinicoli locali che hanno aderito la serata insieme a 5 stand gastronomici che propongono degustazioni e assaggi, ingresso con biglietto. Tappa per la rassegna anche a Pocenia nella Villa Micheli Fantin alle 19.30, 8 realtà gastronomica apriranno i propri stand con altrettante realtà vitivinicole. In totale sono 28 gli appuntamenti in 26 città del vino, nonché per la prima volta fuori dai confini nazionali a Buie d'Istria in Croazia fino al 27 agosto. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio. La parte tecnica Roberto Cavallari e Tommaso Vinoni. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto. Augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.